Mazzi del 99. Ritratto di una generazione a cavallo fra due secoli. Di Maria Piera Ceci. Li ho visti i ragazzi del 99. Andavano in prima linea cantando. Li ho visti tornare in esigua schiera. Cantavano ancora. E non canta, come raccontava il generale Diaz, ma suona il nostro ragazzo del 99 di oggi, con il quale siamo in compagnia. Nuova puntata di questo programma di Radio 24 in cui vi offriamo dei ritratti di coloro che quest'anno diventano maggiorenni. La domanda che ci facciamo anche oggi è questa: come diventano grandi i ragazzi che hanno visto la luce nel secolo scorso, ma figli di questo nuovo secolo? Quelli che precedettero, che li precedettero, i ragazzi del 99, nel senso che erano nati nel 1899, diventarono grandi in guerra, mandati a combattere in trincea come ultima leva della prima guerra mondiale. Per molti di loro non ci fu futuro, perché su quei campi di battaglia morirono a migliaia. I nostri ragazzi, per fortuna, in guerra non ci vanno. E allora quali sono le loro piccole trincee quotidiane, ma anche i loro sogni, le loro passioni? Come vedono il loro futuro in questo periodo di grandi cambiamenti? Ecco il nostro ospite di oggi. Flavio Salvati è venuto a trovarci nei nostri studi di Roma da Fiumicino, dove abita e dove frequenta il liceo scientifico Leonardo da Vinci. Ciao Flavio. Ciao. 385 amici su Facebook, con tutti voi sto iniziando dalla vostra vetrina, la vostra pagina Facebook. 385 amici sotto la media dei ragazzi del 99 che ti hanno preceduto a questi microfoni. Non ti interessano tanto i social network? No, non mi interessano particolarmente, anche perché 389 amici su Facebook non è un simbolo comunque di quanti amici abbiamo in realtà. Non significano nulla, perché non sono veri amici. Sono solo numeri, diciamo. Certo, sono solo numeri. Quanti ne hai in realtà nella vita reale, in carne ed ossa? Amici veri, diciamo, penso una decina. Comunque studi hanno dimostrato che non possiamo mantenere contatti con più di 50 persone contemporaneamente. E quindi, insomma, sono più che sufficienti. Che rapporto hai tu con il tuo telefono e con i social? Le uso per mettermi in contatto con le persone con cui poi disputerò degli incontri, quindi con finalità pratiche proprio. Come abbiamo scovato Flavio? L'abbiamo scovato perché è il campione nazionale di astronomia. Ha infatti vinto la competizione organizzata da FEDUF, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e il Risparmio, che ha visto confrontarsi ragazzi di tutta Italia. Raccontaci un po' com'è andata. La competizione si è svolta a Milano lo scorso anno. Partecipavano più di 40 persone alla fase nazionale provenienti da tutta Italia. E invece alla prima fase partecipano più di 1000 persone. E ho vinto questa competizione perché mi interessa appunto l'astronomia fin da quando ero piccolo. E la prima a introdurmi a questa materia fu appunto mia nonna. E quando ecco, mi regalò... come ci sei arrivato infatti tu all'astronomia, questa tua passione che poi ricorrerà per tutta la puntata, i nostri ascoltatori fra un po' scopriranno perché. Come ci sei arrivato? Appunto il primo libro di astronomia me lo regalò mia nonna quando ero piccolo. Si trattava di un libro semplice, di un attrante astronomico semplice che raccontava dove si trovavano le costellazioni, cosa erano le galassie e qual era la nostra stella. E da lì poi incomincio ad appassionarmi finché... Ti si è accesa una luce nella testa. Finché due anni fa quindi ho iniziato a leggere seriamente argomenti di astronomia, iniziando ad affrontare anche le vere e proprie equazioni che governano quindi l'universo. Ma le stelle le studi sui libri oppure le guardi anche, hai tutta un'attrezzatura in casa, telescopi? Esatto. Le studio sui libri, le guardo anche con un telescopio. Ho comprato lo scorso anno un telescopio Dobson da 300 mm che uso tuttora ogni sera insieme a mio padre e alla mia famiglia per guardare il cielo. Cioè voi invece che mettervi di fronte alla televisione come fanno le famiglie italiane, vi mettete intorno a questo attrezzo con cui guardare il cielo, è un po' questa l'immagine? Sì, è anche abbastanza divertente trascorrere le sere fuori all'aperto, stando quindi ad osservare le stelle. Cos'è che vi affascina in questo cielo, in questa volta celeste, le stelle? Cosa affascina la tua famiglia e te in particolare? Personalmente a me affascina l'immensità dell'universo e soprattutto il non fino ad ora comprendere appieno ciò che ci circonda. Quindi essere travolti da questi innumerevoli misteri che ci circondano. Diciamo che a un certo punto la bellezza del cielo intimidisce, da un certo punto di vista, perché ci fa rendere conto della nostra ignoranza di fronte all'immensità. quanto sei piccolo, ti senti piccolo, no? Di fronte, esatto. Tu come tutti noi, insomma, di fronte alla volta celeste. Senti, raccontami questa serata con i tuoi genitori che guardate le stelle, che cosa fate? Iniziamo organizzando una specie di banchetto fuori per appunto mangiare mentre guardiamo le stelle, perché questa non è una cosa che diciamo dura una mezz'oretta ma va avanti per tutta la serata. Solo per puntare un singolo oggetto e semplicemente con le mani occorre più di mezz'ora, se non un'ora, per oggetti molto difficili da trovare come galassie, nebulose e oggetti molto deboli. Quindi trascorriamo tutta la serata e molte volte fino all'una, alle due di notte, ad osservare le stelle, anche perché molte stelle non sono visibili per esempio a mezzanotte nel nostro emisfero, ma dobbiamo aspettare anche che queste sorgano e quindi siano possibili da vedere. Film volevamo che scegliesse per noi Flavio? Interstellar, film di fantascienza ambientato proprio fra le stelle, premio Oscar per i migliori effetti speciali nel 2015. Un tempo per la meraviglia, alzavamo al cielo lo sguardo sentendoci parte del firmamento, ora invece lo abbassiamo preoccupati di far parte del mare di fango. Questa è una delle frasi che si sentono in Interstellar. Un mare di fango, questa terra per te, è per quello che vuoi puntare gli occhi al cielo, Flavio? Un mare di fango la Terra per ora ancora non lo è. Lo spazio sarà sicuramente la nostra seconda casa, quindi dobbiamo iniziare a studiarlo per poi in futuro iniziare ad esplorarlo. Rispondi, Cooper. Sei sopravvissuto? Da qualche parte, nella loro quinta dimensione. Loro ci hanno salvato. Sì. E che sono questi loro? E poi perché dovrebbero aiutarci? Non so, ma hanno costruito questo spazio tridimensionale nella loro realtà pentadimensionale perché tu potessi capirla. Sì, ma non sta funzionando. Sì, invece. Hai visto che il tempo qui è rappresentato come una dimensione fisica. Hai capito che puoi usare una forza che attraversa lo spazio-tempo. La gravità. Per mandare un messaggio. Affermativo. E a te piacerebbe contribuire a questa missione, questa avventura? Di sicuro, sì. Mm-hmm. Poi mi racconterai cosa vuoi fare da grande, ma qualche sospetto già ci è venuto così. Cos'è che ti piace di questo mettere il naso in una dimensione più grande? Ti piace il fatto che ti sembra che il cielo sia più bello di questa terra su cui viviamo? Al momento ovviamente mi piace più il mondo in cui vivo. Essere circondati dalla natura è qualcosa che non possiamo trovare da nessun'altra parte nell'universo. Per quanto ancora sappiamo, per esempio Marte è un pianeta desolato, anche Venere è un pianeta caldissimo su cui non potremo mai abitare se non sulle nubi più esterne. Dunque l'unica casa che per ora abbiamo è la Terra, che dobbiamo apprezzare, imparare quindi a custodire, perché è l'unica casa di cui disponiamo al momento. Tuttavia è affascinante quando gli astronomi ogni giorno trovano nuovi pianeti al di fuori del nostro, sempre più simili alla Terra, e quindi che potrebbero costituire delle nuove case in futuro. Ma secondo te ci arriveremo? Tu ci arriverai a vederla questa cosa? Spero che ci arriverò, ma non è detto. Flavio, sei preoccupato per appunto il nostro pianeta, per come sta? Anche ultimamente si è parlato molto, no, del nuovo presidente americano che sembra mettere in pericolo gli accordi, eccetera. Sei preoccupato per quello che può succedere a questa nostra terra, l'unica che abbiamo per il momento, come dicevi tu? Sì, dobbiamo imparare a custodire il pianeta che ci ospita fin da quando siamo nati. Ma sei ottimista o pessimista da questo punto di vista? Dal punto di vista delle riforme prese da Trump sono pessimista, in quanto sono delle decisioni negative dal punto di vista ambientale, ovviamente. E ha deciso totalmente gli accordi di Parigi. Quindi secondo te può mettere in pericolo il nostro futuro, il futuro della nostra terra? Sì, assolutamente. L'America è una delle nazioni più industrializzate al mondo. Mm-mm. Quindi una decisione presa dall'America contribuisce in modo significativo alla politica mondiale. Perché stai imparando il cinese? Credo che lo Shetsuan Palace stia spacciando pollo all'arancia per pollo al mandarino e ho intenzione di affrontarli. Fossi in te mi preoccuperei di quello che spacciano per pollo. protagonisti di The Big Bang Theory, la serie TV che Flavio ha scelto per noi, naturalmente quattro giovani scienziati che lavorano insieme in California. Dei nerd, io li definisco così. Tu sei un po' nerd, Flavio? Ti sei mai sentito chiamare così? Ti piace se lo fanno o ti dà fastidio? Non mi sono mai sentito chiamare nerd perché a me piace ciò che studio, lo faccio con piacere, dunque non sento un peso quando studio. Penso che sia normale e non ne soffre la mia vita sociale, diciamo. Io volevo un grifone. Un grifone? Sì, metà aquila e metà leone. È mitologico anche. È irrilevante. Insomma, studiavo tecnologie del DNA ricombinante ed ero fiducioso di poterne creare uno, ma i miei genitori non erano disposti a procurarmi le uova d'aquila e lo sperma di leone. Quando mia sorella ha voluto fare nuoto l'hanno iscritta. Ok, Flavio, ci fermiamo per qualche istante per una pausa, poi torniamo insieme. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24 RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. I ragazzi del 99. La musica classica fa il suo ingresso ai ragazzi del 99. L'unico per il momento ad aver scelto brani di musica classica è Flavio, che è qui con noi oggi. Allora, Flavio, intanto grazie, perché così, insomma, sentiamo anche un po' di Mozart, che male non fa. Ascolti solo la musica classica, un po' di tutto? Ascolto un po' di tutto, però principalmente mi interessa la musica classica. Infatti suono anche pianoforte, dunque ogni nuovo brano con cui mi cimento mi aiuta anche a comprendere e ad apprezzare le piccole sfumature di ogni brano, che quindi ascolto con molto più piacere. E questa tua passione del pianoforte, quando è nata, come è cominciata? Cosa significa per te questo pianoforte? Il pianoforte è come la continuazione della mia vita, diciamo. E mi ha accompagnato fin da quando avevo 10 anni, quando per caso mio padre comprò un pianoforte. E anche lui era sempre appassionato dalla musica. Suono il pianoforte ogni sera per rilassarmi, non lo sento come un peso ma come una gioia. La musica per me è come raggiungere quella perfezione che non potrebbe essere raggiunta nella vita e sulla terra di tutti i giorni. Permette quindi di arrivare a quell'astrazione e a quel livello di perfezione. Passioni questa, l'astronomia, il pianoforte, passioni che però sviluppi e coltivi con la tua famiglia, ma sono piuttosto solitarie come passioni, no? Cioè, mai pensato a questa cosa? Quando è che stai invece con i tuoi coetanei, con i tuoi amici, ammesso che questa cosa ti interessi? Con i miei amici ci sto a scuola, poi durante le varie Olimpiadi ho conosciuto molta gente, infatti ci incontriamo molto spesso perché tutti quanti frequentano gli stessi corsi e quindi abbiamo molto tempo per stare insieme. raccontami il rapporto con i tuoi amici. Tu cosa fai il sabato sera? Il sabato sera certe volte esco con i miei amici e ci incontriamo a Fregene, dove abito, e andiamo al ristorante al mare. Altrimenti la sera studio e sto a casa, suono il pianoforte. Anche sabato sera? Sì. A che ora devi rientrare a casa quando esci? I tuoi genitori ti... No, il limite. Perché non ho mai... Non superato, ho mai raggiunto i limiti che ti hanno superato dato. L'eccesso, sì. Anche perché mi sembra di capire che con i tuoi genitori tu hai un ottimo rapporto. Vedo anche dalla tua pagina Facebook molte foto con la tua famiglia. Adesso è una famiglia anche molto bella, molto presente. Molte foto con i tuoi fratelli in montagna. Mi racconti appunto che guardate le stelle insieme. È una famiglia molto, molto unita, molto legata. Sì, sì, infatti sono fortunato ad averlo. Ma qual è il valore più importante secondo te che la tua famiglia ti sta trasmettendo? L'impegno. E il saper confidare in se stessi e la bontà e l'amore verso gli altri. Non ti è mai pesato questa famiglia così in parte ingombrante? Uso un termine negativo, forse non lo è, però insomma mi dicevi i tuoi genitori ti hanno spinto a guardare all'astronomia, ti hanno spinto a suonare il pianoforte. Ogni tanto non ti viene voglia di dire non ho voglia di fare tutta questa roba e voglio uscirmene un po' con i miei amici oppure leggermi una cosa, un fumetto? No, in realtà ho scelto io di fare tutte queste cose. Loro hanno solamente dato dei suggerimenti. Te l'hanno proposto. Sì. Poi comunque sono io che ho voluto andare avanti e che mi sono appassionato di questi hobby, diciamo. Quindi sono anche molto fortunato ad avere dei genitori che mi comprendono in tal modo da capire ciò che consigliarmi, diciamo. Il libro che ha scelto per noi Flavio oggi è un librettino di quelli proprio leggerini, quelle robe che si leggono in una serata. Sapiens, A Brief History of Humankind di Yuval Noah Harari. Praticamente è la storia dell'umanità dall'evoluzione dell'Homo sapiens nell'età della pietra fino al nostro secolo. Cosa ti ha affascinato di questo libro che è bello impegnativo, Flavio? Assolutamente un libro... che consiglierei di leggere. Infatti quando iniziai a leggere le prime pagine di questo libro è come se tutta la mia vita l'avessi vissuta all'interno di una città. Poi un giorno un uomo mi fece scalare una torre. Da quel punto potevi vedere tutti i collegamenti tra le singole città che rappresentano, quindi tutti i collegamenti nel corso della storia. Per esempio questo libro parla della rivoluzione cognitiva negli esseri umani e della rivoluzione agricola, che rappresenta come la più grande frode nella storia dell'umanità, e della rivoluzione scientifica e della rivoluzione industriale, e collega tutti questi temi in un modo originale e inaspettato, che apparentemente stupisce e confonde all'inizio. Decisamente un ragazzo speciale, lo state sentendo, Flavio. Scendi mai, Flavio, dalle stelle per sapere cosa succede su questa terra? Cioè, come ti informi? TV, giornali, internet? Mi informo specialmente attraverso internet, che considero un utile strumento da questo punto di vista. Allo stesso tempo anche i miei professori mi supportano, infatti il mio professore italiano mi porta spesso giornali e libri da leggere e comunque mi consiglia libri. Quindi anche lui mi tiene aggiornato da questo punto di vista. E che cosa... abbiamo parlato già dell'ambiente, perché forse è uno degli argomenti che ti piace di più, ma cosa cambieresti di quello che succede fuori dalla tua cameretta? Insomma, cos'è che non ti piace delle cose che leggi in internet, di quello che accade? Beh, anche non sono abbastanza informato per criticare la nostra società, diciamo. Per esempio la politica, ti stai cominciando ad interessare? Tra un po' dovrei votare per la prima volta. Da adesso in poi, insomma, ti toccherà votare. È una cosa che ti interessa, che ti piace fare, o sei disinteressato al tema? No, sono interessato alla politica, sto incominciando a leggere per quanto riguarda la politica, però ovviamente mi manca ancora un anno per votare, quindi devo ancora soppesare le mie decisioni. Dove siamo noi adesso? Non è il paradiso, dico bene? E chi lo ha mai detto? Il paradiso non è mica un luogo. Il paradiso è essere perfetti, non credi? Noi possiamo parlarne, ma non è un posto dove possiamo andare. Sei d'accordo o no? Sì, credo di sì. Tu voli molto veloce. Beh, sì, mi piace andare forte, ma non mi piacciono i limiti. Voglio volare sempre più veloce e più in alto e imparare sempre di più. Ora posso andare a 276 miglia all'ora, sul serio. È molto veloce, ma non è ancora abbastanza. Non mi chiedere perché. Io sento che non è abbastanza. La velocità perfetta, figliuolo, non consiste affatto nel muoversi più velocemente. La velocità perfetta significa essere là. L'altro libro che ci ha consigliato Flavio è il gabbiano Jonathan Livingston, che è un po' più noto a tutti noi. Il piccolo e anticonformista gabbiano Jonathan riesce ad intravedere una nuova via da poter seguire, una via che allontana dalla banalità e dal vuoto del suo precedente stile di vita, e comprende che oltre che del cibo, un gabbiano vive della luce e del calore del sole, vive del soffio del vento, delle onde spumeggianti del mare e della freschezza dell'aria. Flavio, tu cerchi delle nuove vie lontane dalla banalità? Ti senti un po' speciale, ad esempio, in mezzo ai tuoi compagni, come il gabbiano Jonathan Livingston? Ognuno è speciale al suo modo. Diciamo, io mi interesso principalmente della fisica, dello studio e dell'astronomia, e temi che per me sono molto importanti, come il volo per il gabbiano Jonathan Livingston. Quindi diciamo che rappresenta per me un mezzo per sfuggire alla banalità della vita di tutti i giorni. Io non potrei vivere, per esempio, senza ogni giorno imparare qualcosa di nuovo, capire qualcosa di nuovo. Per me rappresenta come il cibo di cui Jonathan Livingston parla. Viaggi, Flavio? Ti piace viaggiare? Sì, mi piace viaggiare. Mia madre è olandese, quindi ho anche contatti con i Paesi Bassi. L'ultimo viaggio che hai fatto? L'ultimo viaggio che ho fatto è stato in Bulgaria per l'Internazionale di Astronomia. Ah certo, questa tua passione ti sta portando in giro per il mondo. Infatti ho visto sulla tua pagina Facebook, hai contatti anche con amici cinesi, eccetera. Sì. Siete un bel gruppo sovranazionale, no? Di interessati a questi temi. Ma che lingue conosci? Allora, conosco l'italiano ovviamente. Poi conosco anche l'olandese, perché mia madre è olandese. Sì. E parlo con lei in olandese. E poi da quest'anno ho iniziato a imparare il tedesco, e quindi quest'anno andrò a fare un corso estivo in Austria, a Graz. E così aggiungiamo anche il tedesco. Lui dice che possiamo impararlo tutti. Basta decidere quando. Forse nella prossima vita. Non è poi così difficile, Jonathan. Basta voler comprendere. Io voglio comprendere adesso. Che cosa si prova? Fin dove si riesce ad arrivare? Puoi arrivare dovunque, nello spazio e nel tempo. Dovunque desideri arrivare. Io sono andato in ogni luogo possibile, e in ogni dove e in ogni quando. Flavio, tu ci credi che puoi arrivare da qualsiasi parte? Possiamo arrivare da qualsiasi parte con la mente, in questo ci credo. Ma come lo vedi il tuo futuro? Che cosa ti piacerebbe fare? E sei sicura di farcela? Mi piacerebbe studiare fisica alla Normale di Pisa, e speriamo che ce la farò. E da lì penso che proseguirò in una specializzazione in astrofisica. Mi impegnerò con tutti i miei mezzi a disposizione per farcela. E chi è il personaggio che ammiri di più, che ammiri in maniera particolare? L'ho chiesto a tutti i tuoi compagni dei ragazzi del 99. Il personaggio che ammiro maggiormente è Albert Einstein. È un po' quello che vorresti essere tu? Sì, è anche l'icona della curiosità, dell'immaginazione e dell'uomo che sbaraglia tutte le conoscenze fino ad allora acquisite e ne riforma, ne fa delle altre. Quindi da questo punto di vista è anche un uomo che supera le frontiere prestabilite. Questa teoria della relatività non è affatto scientifica. È basata su un ragionamento che è puramente speculativo. Può anche essere interessante sul piano filosofico, ma dal punto di vista scientifico non ha alcun valore. A mio avviso è geniale e anche limpido. Non c'è infatti un solo tempo e un solo spazio. Esiste al contrario una moltitudine di tempi e di spazi, signori. Solamente che entro ciascun tempo e entro ciascuno spazio vi è una relazione oggettiva indipendente dall'osservatore. Ecco tutto. Hai paura del futuro, Flavio? No, sono ottimista. E lo sai chi sono i ragazzi del 99, del secolo precedente al tuo, che danno il nome a questa trasmissione? Sì, sono i ragazzi che hanno combattuto appunto la prima guerra mondiale. Ci hai mai pensato che alla tua età alcuni ragazzi hanno perso la vita su un campo di battaglia, venivano chiamati e hanno dovuto lasciare le loro stelle, i loro studi, le loro belle famiglie, belle in molti casi come la tua, per andare in guerra? Che cosa ti fa pensare questa immagine? È una cosa inimmaginabile ed orribile, la più grande macchia che possa avere l'umanità in tutta la sua storia, quella delle guerre. Per fortuna la tua generazione è ben diversa, ha delle altre piccole battaglie da combattere ogni giorno. Tu le combatti guardando le stelle, e noi davvero ti facciamo tantissimi auguri per il tuo futuro. Grazie Flavio. Grazie a te.